voci in ostaggio si levano sommandosi, portando secco un messaggio che secco il traggio all'ipocrisia che va formandosi. Sommessamente si espande, crescendo come pianta rampicante, ricopre intrecciandosi spazi vitali di anime che, poiché troppo attenta al presente o poco attenta al futuro che le attende, vivono scontrandosi e pensandosi vicendevolmente nemici, nel mentre camuffandosi con maschere di maschere felici. Sguardi che non vanno comprendendosi, sovrastano le bocche che si sforzano in tensione per tenere la dimensione sufficiente ad apparire sorrisi amici, ma dentro agli occhi riflessi di infami cicatrici, segni dei torti subiti inflitti e dei rimorsi. Occhi già morti bevono a sorsi collera acquiescente repressa, stress, frustrazione, i nostri trascorsi nell'apparente vita riflessa e mondo visione, solo veleno basta concentrazione. E sono occhi in ostaggio, vite in ostaggio, cori di voci in ostaggio si levano sommandosi. Voci in ostaggio, marlumi di speranza e presagio di sogni infrantumi, voci balbuzienti che si accordano rendendo il suono stabile per non lasciare al suolo solo anime e lacrime. Voci in ostaggio, barlumi di speranza e presagio di sogni infrantumi, voci balbuzienti che si accordano rendendo il suono stabile per non lasciare al suolo solo anime e lacrime. Anime e lacrime, anime e lacrime. Non li sentirai cori di voci, tu che divori, corrodi, corrompi le anime che bruci. Pezzi di carbone sparsi al suolo sono ancora in grado di capire cos'è un uomo, cos'è non arrendersi se la sconfitta può apparire inesorabile. Sciogliere funi dai polsi anche quando il nodo può sembrare inestricabile. Sentir la vita che vibra tra fita dai morsi della fame, e anziché cacciarsi alzare il capo al cielo per lottare e respirare. È un sottile ribellarsi ai tuoi colpi di questi corpi scalzi, nudi, infangati, eppure ancora capaci di risollevarsi per sentirsi rinati. È l'interiorità che si espande in movimenti latenti, inespressi, inconfessati e percepibile a livello di epidermide, come una vibrazione di una voce senza termine, soffusa, diffusa, diffonde il contagio dei volti in ostaggio, i cui occhi in ostaggio si intendono a sguardi. E se te ne accorgerai sarà comunque troppo tardi. Cori di voci, voci, voci, voci. Voci in ostaggio, marlumi di speranza e presagio di sogni infrantumi, voci balbuzienti che si accordano rendendo il suono stabile per non lasciare al suolo solo anime e lacrime. Voci in ostaggio, barlumi di speranza e presagio di sogni infrantumi, voci balbuzienti che si accordano rendendo il suono stabile per non lasciare al suolo solo anime e lacrime. È una sublime ribellione che mette sotto sopra da sotto l'astratto concetto della sottomissione. È la vita che chiede il suo spazio vitale, il suo tempo e il suo luogo, e lo spezzarsi di catene dentro un abbaglio che prende fuoco. È un supermercato assaltato, è il sangue sull'asfalto di un manifestante massacrato. È il contagio che si espande se il colore del sangue sull'asfalto si diffonde nel reale da una foto. È un rumore che si innalza come una vibrazione che diviene terremoto, e alzandosi incalza altre voci portandole a sé e porgendosi ad esse, mentre vite sommerse da storie quotidiane assai complesse si vedono riflesse nelle sfaccettature di cristalli di carbonio incastonati in pietre grezze. Anime incastonate nel cemento riscoprono il valore di se stesse, preparandosi al tempo in cui dal campo visivo la realtà di tempi bui sarà scomparsa, portata dal vento. Si sente che adesso ogni voce è voce fra cori di voci in ostaggio che si alza. Voci in ostaggio, marlumi di speranza e presagio di sogni infrantumi, voci balbuzienti che si accordano rendendo il suono stabile per non lasciare al suolo solo anime e lacrime. Voci in ostaggio, barlumi di speranza e presagio di sogni infrantumi, voci balbuzienti che si accordano rendendo il suono stabile per non lasciare al suolo